Bene, il problema è che, come credo sia stato già detto, le agenzie di reti sono i soggetti privati ai quali però è stato nel tempo attribuito una serie di compiti che hanno in effetti rilevanza pubblica e questi compiti, diciamo, sono svolti in un regime di conflitti di interesse e di, soprattutto di poca chiarezza dei modelli enorme. Ora, io trovo singolare che questa poca chiarezza, perché è evidente che il modo in cui sono costruiti i rating sovrani è estremamente opaco e oscuro e secondo alcuni anche irrazionale, che questo abbia poi questi effetti devastanti sulla vita delle persone. Con una battuta, se il mercato è una mano invisibile, non deve pretendere di guidare la mano invisibile. Il problema è che la mano non è tanto invisibile.